ad alta voce. Ignazio Oliva legge L'imperatore di Portugallia di Selma Lagerlöf. Traduzione di Ada Maria Terziani. La domenica dopo la mezza estate. La prima domenica dopo la mezza estate, tutta la gente della Skedalar era invitata da Ula delle Reti al grande banchetto che ogni anno lui e sua nuora allestivano a quell'epoca. Ci si potrebbe ben stupire che due persone così povere organizzassero tutti gli anni un banchetto, ma a quelli che erano al corrente del motivo pareva del tutto normale. Si trattava per la precisione di questo. Quando Ul Bengsta era ricco, aveva dato a ciascuno dei suoi figli un podere. Il figlio maggiore aveva amministrato la sua proprietà pressappoco come suo padre, ed era morto in miseria. L'altro figlio era più stabile e regolare. Non solo aveva mantenuto i suoi beni, ma li aveva anche accresciuti al punto di essere ormai piuttosto agiato. Ma quanto possedeva non era che una miseria rispetto a quello che avrebbe potuto avere se il padre non fosse andato avanti in maniera tanto temeraria e sconsiderata, dissipando denaro e proprietà senza alcun profitto. Se una tale ricchezza fosse capitata nelle mani del figlio e nella sua giovinezza, chissà fin dove sarebbe arrivato. Avrebbe potuto possedere tutti i boschi del distretto di Lövsio, una bottega a Bröby e un battello sul lago. Forse sarebbe perfino diventato padrone della ferriera di Ekeby. Il figlio, naturalmente, aveva fatto fatica a perdonare al padre il suo sperpero, ma si era sempre dominato. E non erano mai giunti a una vera rottura. Quando Ul Bengsta era fallito, certo la maggior parte della gente, e fra gli altri il padre, si era aspettata che il figlio minore intervenisse in suo aiuto con le sue proprietà. Ma a che cosa sarebbe servito? Giusto pagare i creditori. Proprio con l'idea che il padre potesse avere qualcosa a cui ricorrere quando non avesse più niente del suo, il figlio custodiva quel che aveva ricevuto. E se adesso Ul Bengsta si era stabilito presso la vedova del figlio maggiore, cercando di provvedere a se stesso e a lei, annodando reti, non era certo colpa sua. Non una, ma 100 volte aveva invitato il padre ad andare a vivere con lui. Era quasi un nuovo torto che il padre gli faceva questo, perché gli aveva causato una pessima reputazione tra coloro che sapevano come il vecchio se la passava male. Tuttavia neppure questa volta si era venuta a un vero disaccordo. Anzi, per mostrare al padre il suo affetto, il figlio ogni estate affrontava con moglie e bambini il rischioso cammino della Skedalar, fermandosi presso di lui un giorno intero. Se la gente avesse saputo quanto si sentivano a disagio lui e sua moglie ogni volta che vedevano quella casupola, e la misera catapecchia di vita rimessa, e la pietrosa piantagione di patate, e tutti quei piccoli cenciosi della cognata, avrebbe capito quanto il padre gli stesse a cuore, se era capace di sottoporsi a tutto questo una volta all'anno pur di poterlo vedere. Ma la cosa più penosa per lui e sua moglie era che si dovesse organizzare un banchetto per loro. Ogni volta nel ripartire pregavano e supplicavano il padre che l'anno seguente facesse a meno di invitare tutto il vicinato per festeggiarli. Ma il vecchio era inflessibile. Non voleva a nessun costo rinunciare al banchetto, sebbene fosse sicuramente al di sopra dei suoi mezzi. Quando lo si vedeva andare in giro così piegato e spento, non si sarebbe mai creduto che restasse ancora molto del vecchio Ul Bengsta di Lysterby. Ma la voglia di grandezza non l'aveva abbandonato. Quella voglia era stata la sua sventura e sembrava che non se ne potesse mai liberare. Il figlio aveva sentito dire in giro, e d'altra parte lo capiva anche da sé, che il vecchio e la cognata risparmiavano e tiravano la cinghia tutto l'anno al solo scopo di poter dare una festa decorosa il giorno in cui arrivava. Ma in quell'occasione c'erano vivande a non finire, caffè e ogni tipo di tartine, prima ancora che fossero scesi dalla vettura. E poi pranzo per tutti i vicini con pesce, carne, torta di riso e budino di frutta e una grandissima quantità di bevande. Era da piangere. Il figlio minore e sua moglie non facevano nulla per incoraggiare quella pazzia. Non accettavano nel ripartire altro che il normale cibo di un giorno. Ma al banchetto non potevano sfuggire, in nessun caso. Si dicevano talvolta l'un l'altro che alla fine sarebbero stati costretti a rinunciare a quella visita per evitare che il padre, per amor loro, dovesse di nuovo ridursi in rovina. Ma temevano che nessuno avrebbe mai capito le loro buone intenzioni, se fossero rimasti a casa. E pensare in mezzo a quale compagnia dovevano trovarsi a quei banchetti. Vecchi fabbri, pescatori, contadini. Se non avesse avuto l'abitudine di intervenire anche della gente rispettabile come la famiglia di Falla, non ci sarebbe stata una sola persona con cui poter scambiare una parola. Al figlio di Ul Bengsta, si intende, piaceva di più il vecchio Erik di Falla. Ma anche di Lars Gunnarsson, che aveva preso possesso della fattoria dopo la morte del suocero, aveva una gran stima. Certo, non proveniva da una famiglia eminente, ma era un uomo che aveva avuto l'intelligenza di fare un buon matrimonio e che senza dubbi avrebbe saputo farsi avanti in ricchezza e reputazione prima di uscire dal gioco. Fu dunque una grande illusione per lui quando si recò nella Skedalar, il terzo anno dopo la morte di Erik di Falla, sentire appena arrivato che Lars Gunnarsson, questa volta probabilmente, non sarebbe intervenuto alla festa. «Non è colpa mia», disse il vecchio Ula. «Anche se non è esattamente il mio tipo di gente, ieri sono andato a invitarlo, per amor tuo. Forse ne ha abbastanza di questi banchetti?» disse allora il figlio. «No, no», rispose il vecchio. «Credo proprio che verrebbe volentieri, ma ci deve essere qualche altra faccenda che lo trattiene». Il vecchio non spiegò che cosa intendesse dire, ma mentre veniva servito il primo caffè, tornò sull'argomento. «Non devi essere così contrariato perché Lars non viene stasera», disse. «Chissà poi se avresti ancora piacere a stare in sua compagnia, perché negli ultimi tempi ha cominciato a diventare un po' sregolato». «Non vorrete mica dire che si è messa a bere?» chiese dubbioso il figlio. «Già, già, non hai indovinato male», rispose il vecchio. «Gli è presa la mania da questa primavera e dalla mezza estate non è rimasto sobrio un solo giorno». C'era l'usanza, durante queste visite, che padre e figlio, appena bevuto il caffè, prendessero ognuno la propria canna e scendessero a pescare al lago. E lì il vecchio rimaneva per lo più zitto, per non smettere la pesce. Quell'anno fece un'eccezione. Di tanto in tanto rivolgeva la parola al figlio. Il discorso procedeva a rilento, naturalmente, con le sue solite frasi brevi, ma era evidente che appariva più animato che negli anni precedenti. Si sarebbe quasi pensato che avesse qualcosa di particolare che voleva dire, o piuttosto che avesse qualcosa su cui avrebbe desiderato una risposta dal figlio. Era come uno davanti a una casa vuota che grida e chiama e non vuole rinunciare alla speranza che qualcuno gli venga ad aprire. Più volte tornò a parlare di Lars Gunnarsson, raccontò in parte che cosa era avvenuto all'ultimo esame di famiglia, e tirò fuori anche tutte le chiacchiere che avevano circolato su di lui nelle Skedalar dopo la morte di Erik di Falla. Il figlio gli diede ragione. Era anche probabile che Lars non fosse del tutto innocente, e se ora aveva cominciato a bere, era evidentemente un segno cattivo. «Già, sono curioso di vedere come trascorrerà questa giornata», disse il vecchio. In quel momento un pesce abboccò all'amo del figlio, dispensandolo dal rispondere. Non c'era niente in quella storia che richiamasse in qualche modo i rapporti tra lui e il padre. Eppure non poteva fare a meno di credere che ci fossero dei sottintesi nelle parole del vecchio. «Spero che andrà dal pastore stasera», disse il vecchio. «Perché esiste un dono. Barca che se lo cerchi». Dopo queste parole ci fu un lungo silenzio. Il figlio era tanto impaziente di mettere un'esca nuova all'amo che non pensò a rispondere. E poi non c'era nulla da rispondere. Ma a quel punto il vecchio mise un sospiro così profondo che gli dovette guardare dalla sua parte. «Papà, non vedete che ha abboccato?» disse. «Volete lasciare il pesce persico strapparvi la lenza?» Il vecchio sobbalzò. Tolse il pesce dall'amo, ma fu così maldestro da lasciarlo ricadere nel lago. «Non mi riesce di prendere un pesce oggi, per quanto mi ci metta», disse. Già, non c'erano dubbi. C'era qualcosa che il padre avrebbe voluto sentir dire o confessare dal figlio. Ma non poteva mica pretendere che si lasciasse paragonare a uno sospettato di aver ucciso suo suocero. Il vecchio non aveva messo una nuova esca all'amo. Stava ritto, su una pietra, a mani giunte, e fissava l'acqua chiara con i suoi occhi spenti. «Già, c'è un perdono», continuò. «Per tutti quelli che lasciano i vecchi giacere e intirizzirsi aspettando al freddo e al gelo, c'è perdono fino a oggi. Ma poi è finita». Questo non poteva certo essere detto per il figlio. Il vecchio non faceva che pensare ad alta voce, come fanno spesso le persone anziane. Ad ogni modo, in quel momento, al figlio venne in mente che era meglio cercare di farlo parlare d'altro. «Che ne è di quell'uomo qui delle valli che è diventato pazzo? Quello che è diventato pazzo l'autunno scorso?» chiese. «Ah, Jan di Skrolika», rispose il vecchio. «Già, è rinsavito per tutto l'inverno. Non verrà alla festa neanche lui oggi, ma di lui certo non sentirà la mancanza. È soltanto un povero vecchio contadino, come me». Questo poteva anche essere vero, ma il figlio era così contento di poter parlare di qualcun altro che non fosse Lars Gunnarsson, che si informò con molta partecipazione di che male soffrisse Jan di Skrolika. «Oh, è soltanto questo. Si è ammalato per la nostalgia di una figlia che è partita da 2 anni e non ha fatto sapere una parola di sé», Quella che è andata a finir male? Già, te lo ricordi? Ma non è per questo che il padre soffre da morire. È la mancanza d'affetto che non può sopportare. Quella loquacità stava diventando imbarazzante. Il padre incominciava a esagerare con le sue chiacchiere. «Sapete, credo che andrò laggiù, là, su quella pietra», disse il figlio. «Vedo che c'è molto pesce là intorno». Cambiando posto si trovò fuori portata per il vecchio, e così non si scambiarono più parole per tutta la mattina. Ma dovunque si spostasse il figlio, sentiva su di sé lo sguardo di quegli occhi annebbiati, senza luce. Fu ben contento quella volta quando arrivarono gli ospiti. Era apparecchiato fuori dalla casetta, e mettendosi a tavola, il padre cercò di scuoter via le sue pene e le sue preoccupazioni. Quando sedeva a un banchetto come padrone di casa, riappariva in lui tanto del vecchio Ul Bengsta che si poteva in parte capire che uomo fosse stato un tempo. Nessuno di Falla era presente, ma si capiva benissimo che Lars Gunnarsson era nel pensiero di tutti, e non c'era da meravigliarsene, visto che era proprio per quel giorno che Lars era stato messo in guardia. Ma il figlio di Ul Bengsta dovette stare a sentire più di quanto gradisse dell'esame di famiglia a Falla e della straordinaria coincidenza che il pastore avesse parlato dei doveri verso i genitori proprio quella sera. Ad ogni modo non disse nulla, ma il vecchio Ul Bengsta dovette certamente vedere dalla sua espressione che stava annoiandosi, perché si volse a lui. «Che ne dici di tutto questo, Nils? Non stai pensando forse a te che il Signore non abbia lasciato un comandamento per i genitori che prescrivesse i loro doveri nei confronti dei figli?» La domanda colse Nils così alla sprovvista che si sentì avvampare in volto, come se fosse stato colto in flagrante. «Ma caro padre», disse, «io non ho proprio mai né pensato né detto...» «No, è vero», l'interruppe il vecchio, e rivolgendosi agli ospiti che sedevano a tavola, continuò. «So che vi sarà difficile credere a quel che dico, ma la verità è che questo mio figlio non mi ha mai mosso un rimprovero, e nemmeno sua moglie». Il vecchio non si era rivolto a nessuno in particolare con queste parole, e nessuno si sentì in dovere di rispondergli. «È stata una dura prova da passare», proseguì ancora Ul Bengsta. «Delle gran belle proprietà si son visti sfuggire di mano. Avrebbero potuto essere signori adesso, se solo avessi amministrato bene, ma loro non mi hanno mai detto niente, e tutte le estati vengono a trovarmi per dimostrarmi che non mi portano rancore». Era tornato così privo di vita ora, il volto del vecchio, e la voce era così spenta. Il figlio si domandava se avesse uno scopo preciso suo padre, o se parlasse tanto per dir qualcosa. «No, non è come Lisa», disse il vecchio. Indicò la vedova dell'altro figlio per la quale abitava. «Tutti i giorni se la prende con me perché ho sperperato il mio denaro». La nuora non parve per niente infastidita da quelle parole. Gli rispose con una risata bonaria. «E voi? Voi ve la prendete con me, voi, perché non faccio tempo a rammendare tutti i buchi nei vestiti dei ragazzi?» «Sì, è vero», ammise il vecchio. «Non facciamo tanti complimenti fra di noi, ma parliamo chiaro. Possiamo parlare di tutto, e tutto quello che ho io è suo. Tutto quello che ha lei è mio. E comincio a credere che è lei. È proprio lei la mia vera figlia». Il figlio si sentì di nuovo a disagio e anche preoccupato. C'era qualcosa che il vecchio voleva tirar fuori. Aspettava una risposta, ma mica poteva pretendere che la risposta venisse lì, in mezzo a tutta quella gente. Fu un vero sollievo per il figlio di Ul Bengsta accorgersi che Lars Gunnarsson e sua moglie erano al cancello e si dirigevano nel cortile. E non solo lui, ma tutti i presenti furono contenti del loro arrivo. Nessuno sembrava più ricordarsi di tutti gli oscuri sospetti. Lars e la moglie si scusarono più volte di essere arrivati in ritardo, ma Lars aveva avuto un forte mal di capo e avevano addirittura temuto di non poter neanche partecipare. Ma ora il dolore gli era un po' passato e aveva deciso di provare a venire. Forse uscire e stare in mezzo alla gente l'avrebbe aiutato a dimenticare il male. La frase era un po' più stempiato dell'anno precedente, ma per il resto pareva altrettanto allegro e socievole. Aveva appena inghiottito un paio di bocconi e si era subito messa a discutere con il figlio Ul Bengsta su affari di boschi, grossi guadagni e prestiti di denaro. La piccola gente intorno a loro era talmente sbalordita da quelle cifre che non osava aprir bocca. Solo il vecchio Ul Bengsta volle dire anche lui la sua. «Dal momento che parlate di denaro», disse, «chissà se ti ricordi, Nils, di quella cambiale di 17.000 scudi che aveva avuto dal vecchio padrone di Duvnas. Ricorderai che si era persa e non ero riuscito a trovarla nel momento in cui avevo più bisogno di soldi. Ad ogni modo avevo scritto al padrone della ferriera per chiedergli il pagamento. ma venne a sapere dalla risposta che era in fin di vita. E quando morì, i liquidatori del patrimonio non trovarono nulla nei registri riguardo al mio credito. Mi informarono che non potevano pagarlo finché non esibivo la cambiale. L'abbiamo cercata dappertutto, sia io che i miei figli, ma non siamo mai riusciti a trovarla. «Non vorrete mica dire che l'avete trovata ora?» esclamò il figlio. «È stata una cosa veramente straordinaria», proseguì il vecchio. «Yandy Scroll, che è arrivato qui una mattina, mi ha detto che sapeva con certezza che la cambiale stava nel cassetto segreto della mia cassa dei vestiti. Mi aveva visto tirarla fuori da lì. In sobborno. Ma la novella che ha cercata lì?» «Sì, avevo già cercato nel cassetto segreto, a sinistra della cassa, ma Ian mi disse che doveva essere a destra. Ed ecco che, guardando da quella parte, scoprì un cassetto segreto di cui ignoravo l'esistenza, e la cambiale era là.» «Dovete senza dubbio avercela messa una volta che avevate bevuto un po' troppo», suggerì il figlio. «Già, già, deve essere proprio così», ammise il vecchio. Il figlio per un istante depose coltello e forchetta, ma poi li riprese. C'era qualcosa nella voce del vecchio che lo metteva in allarme. Forse era tutta una storia. «Ed era scaduta?» chiese. «Già», rispose il vecchio, «lo sarebbe certo stata con un altro debitore. Ma io presi la barca a remi e andai con la cambiale a trovare il giovane padrone di Dubnas, ed egli riconobbe subito che era in regola. È chiaro come il sole che vi devo pagare il debito di mio padre, Ul Bengsta. Ma dovete darmi qualche settimana di proroga», disse. «È una grossa somma da sborsare tutto in una volta.» «Ha parlato da galantuomo», disse il figlio, lasciando cadere pesantemente la mano sulla tavola. La gioia cominciava a insinuarsi in lui, a dispetto di ogni diffidenza. E pensare che il vecchio si era tenuto dentro per tutto il giorno una notizia senza riuscire a tirarla fuori. «Ho detto al padrone della ferriera che non c'era bisogno che pagasse nulla», spiegò Ula, «purché mi desse una cambiale nuova. Il denaro poteva anche restare da lui.» «Un'ottima idea anche questa», disse il figlio. Gli era difficile mostrarsi calmo come avrebbe desiderato. La voce gli usciva a suo malgrado sonora e lieta. Sapeva che non si può mai essere completamente sicuri del vecchio Ul Bengsta. Il momento dopo era capace di dire che era tutta un'invenzione. «Non mi credi?» disse il vecchio. «Vuoi vedere la cambiale? Valla a prendere, Lisa.» Poco dopo, il figlio ebbe davanti agli occhi la cambiale. Per prima cosa guardò la firma e riconobbe subito la scrittura chiara e precisa. Poi guardò la cifra, e anche questa era esatta. Fece un cenno alla moglie che sedeva di fronte a lui, che tutto era in regola. E poi le porse la cambiale, perché poteva ben capire quanto fosse anche lei impaziente di vederla. La moglie lesse la cambiale per filo e per segno, da cima a fondo. «Cos'è questo?» chiese. «Pagherò a Lisa, figlia di Per de la Schedalar, vedova di Ben Wilson.» «Ah, andrà dunque a Lisa la cambiale?» «Sì», rispose il vecchio. «Ho dato a lei questo denaro, perché è lei la mia vera figlia.» «Ma è ingiusto verso...» «No», replicò il vecchio, la sua voce stanca. «Non è ingiusto. Ho fatto quanto dovevo, e non sono più debitore a nessuno. Poteva essere...» proseguì rivolgendosi al figlio, «che avessi anche un altro creditore, ma mi sono informato bene della cosa e so di non averne.» «Alludete a me?» disse il figlio. «Non penserete che...» Ma quel che il figlio stava per dire al padre restò inespresso. Fu interrotto da un grido dall'altra parte della tavola. Lars Gunnarsson aveva all'improvviso afferrato una bottiglia piena di acquavite e se l'era portata alla bocca. La moglie gridava per l'angoscia e cercava di togliergliela. Lars glielo impedì finché non ebbe vuotato metà della bottiglia. Allora la rimise sulla tavola e si volse alla donna. Era rosso in volto, aveva negli occhi uno sguardo fisso e selvaggio e stringeva i pugni. «Non hai sentito? È stato Ian a trovare la cambiale! Tutto quello che sogna, tutto quello che sogna lui si avvera, non capisci che lui ha la chiaroveggenza? E vedrai che oggi la sventura mi colpirà, come ha predetto!» «Ma ti ha soltanto avvisato di stare attento.» «Hai voluto a tutti i costi che venissi qui per farmi dimenticare che giorno era, e invece è arrivato questo nuovo avvertimento!» Portò ancora alla bocca la bottiglia di acquavite, ma la moglie si gettò su di lui supplicandolo in lacrime. Allora la rimise sulla tavola, con una risata. «E ne la pure. Tienitela se vuoi», disse alzandosi in piedi e rispingendo col piede la sedia. «E addio a voi, Ul Bengsta. Addio, mi scuserete se me ne vado, vero? Oggi devo andare da qualche parte dove posso bere in pace.» Si avviò verso l'uscita. La moglie li corse dietro, ma